falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Allora, io non voglio preoccuparvi, non voglio mettervi ansia, però vi voglio spingere a riflettere. Quando voi chiamate un vostro amico, la vostra fidanzata, il vostro fidanzato, parlate con un collega di lavoro, navigate su internet, fate una ricerca su Google, mettete una foto su Facebook o fate altre mille di quelle cose che tutti noi facciamo, siete sicuri che quella telefonata l'avete ascoltata solo voi, che quella foto la vedono solo quelli che voi volete che la vedano, che quella ricerca che state facendo rimarrà all'interno del vostro computer? Bene, purtroppo non è così, ormai lo sapete, esiste una sorta di grande fratello, non quello televisivo, il Big Brother, quello previsto con grandissima perspicacia da Orwell nel suo mitico 1984, c'è un'entità non meglio identificata che ci spia. La maggior parte delle persone pensa che a essere spiati siano solo i politici, i delinquenti, i terroristi, quelli che maneggiano informazioni delicate. Bene, non è così, siamo spiati un po' tutti. E oggi vi raccontiamo una storia che vi farà capire quanto tutti noi siamo tenuti sotto controllo, quanto ormai il concetto di privacy sia diventato una vecchia chimera abbandonata. Perché il protagonista di oggi è un ragazzo statunitense che è venuto a conoscenza di qualcosa di veramente spaventoso. È un insieme di programmi realizzati dal governo degli Stati Uniti con lo scopo di controllare i propri cittadini, ma tutti i propri cittadini, gli uomini politici, i personaggi più influenti del pianeta, ma anche la gente della strada. Il nostro protagonista di oggi è Edward Snowden. È un ragazzo, un giovane informatico statunitense dipendente dalla CIA e poi dipendente dalla National Security Agency, la NSA. È stato l'artefice del più grave e clamoroso scandalo che abbia mai visto coinvolto il governo degli Stati Uniti d'America, grazie alla divulgazione dell'esistenza di una rete di intercettazioni telefoniche e di programmi di sorveglianza via internet di portata globale, una questione che riguarda tutti. Anche se non stai facendo niente di sbagliato, qualcuno ti sta guardando e registrando, e le capacità di acquisizione e di spazio di questi sistemi aumentano di anno in anno in maniera esponenziale. Questo fino ad arrivare al punto che non c'è bisogno che tu abbia commesso qualcosa di sbagliato. Puoi essere semplicemente incappato nelle indagini su qualcun altro, magari anche per un numero di telefono sbagliato. Loro possono usare questo sistema per andare indietro nel tempo, per verificare ogni tua decisione, sapere con chi hai parlato, e possono attaccarti, dirigere i sospetti su una vita innocente e stravolgere il contesto in base a quello che gli serve. Quello che descrive Snowden è uno scenario veramente inquietante. La CIA e tutti gli altri enti governativi segreti statunitensi hanno creato negli anni un complesso e capillare sistema di controllo delle comunicazioni private dei cittadini americani. Questo sistema ovviamente può essere allargato a chiunque possegga un cellulare, un computer, navighi su internet, violando una serie infinita di leggi nazionali e internazionali sulla privacy e sulla libertà individuale. Quando Edward Snowden lo ha scoperto, lo ha semplicemente reso pubblico e ha messo in piedi lo scandalo più grande che abbia mai coinvolto il governo americano. Ha causato una serie infinita di incidenti diplomatici, di conseguenze politico-economiche mondiali, il cosiddetto Datagate. Vediamo bene di capire come sia riuscito Edward Snowden a fare tutto questo, cioè come si sia trovato in una delle posizioni più potenti sulla faccia della Terra e perché ha agito così. E soprattutto cerchiamo di capire che fine abbia fatto lui, l'uomo che si è tirato addosso tutti gli agenti della CIA, dell'FBI, dei servizi segreti di mezzo pianeta. E Edward Joseph Snowden nasce il 21 giugno dell'83 a Elizabeth City, nella Carolina del Nord, quindi è veramente un ragazzo. Il padre è un ufficiale della Guardia Costiera degli Stati Uniti, la madre è impiegata alla Corte Federale, il nonno è un agente dell'FBI e si trova al Pentagono durante l'attacco dell'11 settembre. La sorella è un avvocato della Corte Federale a Washington. Insomma, Edward viene da una famiglia che in un modo o nell'altro ha sempre a che fare col governo. Lui fin da giovanissimo è convinto di essere destinato a un lavoro in quel settore. Studia informatica, non si diploma, strano visto quello che poi apprenderemo. Frequenta un corso universitario, non termina neanche quello. Come spesso accade, i grandi geni poi non sono degli studenti modelli, però ha un quoziente di intelligenza altissimo, è un mago nel computer. Nel 2004 si arruola volontario nelle forze speciali per andare in Iraq, però durante un'esercitazione, vedi il destino, si rompe tutte e due le gambe, va a lavorare all'università del Maryland, nel centro di studi del linguaggio, viene notato per le sue grandissime conoscenze in campo informatico e dopo un test nel quale risulta davanti a tutti gli altri partecipanti, è veramente anni luce avanti a tutti, viene assunto dalla CIA come specialista in Information Technology. Il falco e il gabbiano. Edward Snowden viene assegnato alla divisione delle comunicazioni globali della CIA nel quartier generale di Langley in Virginia. Lui è un vero mago del computer, viene inserito in un programma di addestramento segreto. Praticamente viene segregato per 6 mesi in un hotel dove riceve un training specifico. Nel marzo del 2007, ricordiamo non ha ancora 24 anni, viene mandato a Ginevra sotto copertura diplomatica. È responsabile della sicurezza del network informatico nell'ambito di una missione segreta congiunta tra gli Stati Uniti e l'ONU. Vive in un appartamento lussuoso sul lago e percepisce uno stipendio da favola, $200,000 all'anno, non male a 24 anni. Considerato il tecnico più esperto del paese in cybersicurezza e per questo motivo comincia a essere informato di tutta una serie di azioni che il governo americano mette in campo ai fini di un controllo sistematico a livello mondiale. Nel 2009 esce dalla CIA per collaborare come consulente esterno, è un modo per guadagnare di più attraverso la Dell, che gestisce i sistemi informatici della CIA e di altre agenzie governative, viene assegnato alla base aerea di Yokota, vicino a Tokyo, una struttura della NSA, con il compito di istruire gli ufficiali per difendersi dagli hacker cinesi. La guerra ormai si svolge anche sui computer. Nel 2011 ritorna nel Maryland, continua a lavorare su assegnazioni governative e poi nel 2012 la Booz Allen Hamilton, che è una società di consulenza alla difesa, lo assume. L'incarico è molto delicato, si va alle Hawaii dove c'è un centro operativo molto importante, è quello che controlla la Cina, la Corea del Nord, e in qualità di amministratore del sistema Snowden viene a scoprire qualcosa di assolutamente incredibile. La NSA e ogni agenzia di intelligence in generale cerca di trarre informazioni ovunque sia possibile e con ogni mezzo. All'inizio ho osservato che il controllo avveniva in maniera meticolosa, ma era indirizzato particolarmente oltreoceano. Ma col tempo ho capito che avveniva anche all'interno del paese. E per farlo, la NSA si concentra sulle comunicazioni di chiunque. Alcune sono monitorate di default e vengono misurate, filtrate, analizzate e salvate per un certo periodo di tempo. Quindi il loro obiettivo è controllare persone che possono essere dannose per il governo oppure sospettate di terrorismo, ma intanto vanno a raccogliere le vostre comunicazioni personali. Qualsiasi controllore della NSA può bersagliare chiunque in qualsiasi momento, in qualunque posto si trovi nel mondo. Dipende solo dal raggio di azione dei sensori e dall'autorità che gli è stata conferita. Non tutti i dipendenti hanno il potere di colpire chiunque, ma io, seduto alla mia scrivania, avevo di sicuro il potere di intercettare chiunque, da ciascuno di voi, attraverso il vostro singolo account, per arrivare a un giudice federale o persino al presidente. To even the president. Eh sì, avete capito bene. Io seduto alla mia scrivania avevo il potere di intercettare chiunque. Lui si trova seduto veramente, fisicamente, su una sedia dalla quale può avere accesso ai dati sensibili di qualsiasi abitante di questo pianeta. È un potere immenso che potrebbe essere usato con scopi criminali. Lui sa molto bene che il governo degli Stati Uniti non è che sia criminale, però non si fa nessun tipo di scrupolo pur di raggiungere degli obiettivi. Lui ormai è considerato il genio tra i geni e il più bravo tra i tecnici informatici del paese. È un elemento fidato, è convinto di quello che sta facendo è finalizzato alla difesa della sicurezza del paese, per trovare i terroristi, per trovare i nemici della patria. Poi a un certo punto questa sua convinzione cambia, lui non la pensa più così, si convince che questa sistematica e capillare ingerenza del governo nella vita dei privati cittadini sia incostituzionale così come è, e soprattutto c'è anche questo particolare: la gente tutte queste cose non le sa. Ricapitoliamo la situazione di Edward Snowden. Ha 29 anni, guadagna uno sproposito, vive nel lusso, si confronta con i massimi vertici dei servizi segreti del paese, ha accesso ai dati privati personali di qualsiasi persona e insomma su di lui sono convogliati praticamente tutti i poteri che ognuno nel sogno vorrebbe avere. È un fatto incredibile da immaginare, sarebbe più facile pensare a un sistema nel quale ognuno sa qualcosa ma non tutto, una specie di scatola cinese. Invece non è così, ci sono delle persone che conoscono tutto il quadro della situazione, e questa cosa a lui comincia a non piacere, perché quello che lo disturba è per esempio che durante un'indagine per altre questioni una persona possa venire spiata, la si possa vedere nei suoi momenti di vita privata, magari avere accesso a una sua foto, magari in una situazione compromettente. Magari è un uomo, magari è una donna, magari è una bella donna, un tecnico può girarla a un collega solo per fargli vedere questa bella ragazza, magari nuda. Ecco, la privacy di quella ragazza è stata violata e non si sa dove questa foto potrebbe arrivare. E nei tempi più recenti, insomma, abbiamo visto anche conseguenze tragiche dell'indiscriminato uso della rete partendo da situazioni private. Ma per lui è veramente troppo, non può accettare che il governo statunitense violi sistematicamente la privacy e i diritti di tutta la gente del mondo. Naturalmente lo sa che mettersi contro tutto questo è un'impresa da folle, che denunciare tutto questo lo porterebbe a scontrarsi con un muro di gomma. L'unico modo è la divulgazione pubblica, solamente fornendo le prove di questa incredibile rete di controllo potrà portare a conoscenza questa terrificante realtà e provare a portarla al collasso. Lo sa cosa rischia: rischia la sua posizione, i suoi guadagni stellari, la sua straordinaria prospettiva di carriera, rischia la libertà, forse rischia anche la sua vita, anzi probabilmente rischia anche la sua vita. Bene, tanto di cappello per una persona che rinuncia a tutto questo per una motivazione di cuore, ideologica. Lui matura la sua decisione, abbandona questo mondo dorato, copia oltre 1 milione di prove, dati tangibili, quindi non singole informazioni, e crea una vera e propria rete per diffonderla. È pronto a fornire queste informazioni a chi gli garantirà una completa e totale cassa di risonanza. Il falco e il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi si chiama Edward Snowden, è un agente tecnico informatico della CIA, anzi in realtà un ex agente, perché ha rinunciato a tutto il suo universo dorato di soldi, di potere, di privilegi, per una crisi di coscienza, perché il suo lavoro in tutti questi anni è stato quello di seguire le persone del pianeta attraverso il loro computer, attraverso i loro dati personali, insomma di intercettare e spiare il mondo. Non ce la fa più e decide di rendere pubblici i programmi di sorveglianza di massa del governo degli Stati Uniti. Praticamente difende tutti noi, difende le leggi della privacy, le più elementari regole della tanto proclamata libertà di cui godrebbe ciascun cittadino americano. E siamo arrivati al suo grandioso, terribile, ammirevole e pericoloso colpo d'ala, perché spinto dal desiderio di rendere tutti consapevoli di quello che sta accadendo, è deluso dalla politica dei presidenti Bush, ma anche di Obama, dal quale sperava molto di più in fatto di tutela del singolo cittadino, prende la decisione più difficile che un uomo nella sua posizione potrebbe prendere. Copia file su file oltre 1 milione di prove dell'esistenza di programmi di controllo di massa attuati dal governo e poi mette in pratica il suo piano. Contatta la giornalista Laura Poitras, della quale si fida, lei è membro del consiglio della Fondazione sulla Libertà di Stampa, e contatta il giornalista Glenn Greenwald, che è un reporter del Guardian. A loro due decide di fornire tutta la sua documentazione, che è, insomma, definire scottante è poco, è riduttivo, così come è riduttivo definire pericolosa la sua posizione. In questo momento il nostro protagonista, Edward Snowden, è seduto su una polveriera. You can't come forward against the world's most powerful intelligence agency. Non puoi andare contro alle agenzie di intelligence più potenti del mondo ed essere completamente al sicuro dai rischi, perché sono degli avversari così potenti che nessuno può contrastarli. Se ti vogliono prendere, ti prenderanno. Ma al tempo stesso devi capire cos'è veramente importante per te, capire se riesci a vivere senza libertà, ma comodamente, se è qualcosa che puoi accettare. E per molti lo è, perché è nella natura umana. Puoi svegliarti ogni giorno, andare al lavoro, prenderti un bello stipendio per un lavoro relativamente poco impegnativo, che è contro l'interesse pubblico. Puoi andare a dormire dopo esserti guardato qualcosa alla televisione. Ma se invece ti rendi conto che quello è il mondo che tu hai contribuito a creare, che peggiorerà sempre di più, di generazione in generazione, che loro aumenteranno sempre più il potere di questa architettura dell'oppressione, allora capisci che puoi accettare qualsiasi rischio, senza pensare alle conseguenze, se la gente viene informata e può decidere come tutto questo debba essere usato. Vedete, oggi gli eroi non sono solo quelli che vanno a rischiare la vita, che si fanno sparare in faccia da qualcuno. Oggi gli eroi sono questi. Edward Snowden rinuncia a tutto, è forte solo della sua determinazione. Il 20 maggio del 2013 lascia il suo ufficio nella contea di Honolulu alle Hawaii, va all'aeroporto, non passa neanche da casa, non fa la valigia, non lascia detto a nessuno le sue intenzioni, non prenota nessun biglietto, prende un last minute per Hong Kong. Naturalmente agisce così perché sa benissimo cosa vuol dire essere monitorati. La scelta di Hong Kong viene motivata da lui in base al fatto che si tratta di un paese con un quadro culturale e giuridico che gli possa permettere di non essere arrestato e estradato immediatamente negli Stati Uniti. Appena arrivato prende una stanza all'hotel Mira e da lì parte con i suoi messaggi, posta elettronica crittografica per il giornalista Greenwald, lo informa di dove si trova. Nei mesi precedenti, con lo pseudonimo di Verax, Snowden aveva tenuto una fitta corrispondenza, sempre naturalmente crittografata, perché lui sa come evitare di essere spiato, e sempre con Greenwald e con Laura Poitras, e aveva fornito dei documenti riservati per far capire loro che non era un megalomane. Adesso è a Hong Kong in una stanza d'albergo ed è pronto a rivelare tutto. E immaginate cosa succede all'interno della redazione del The Guardian quando cominciano a profilarsi i contorni di questa vicenda. Snowden scrive: so che soffrirò per le mie azioni, so che questo segna la mia fine e vi avverto, dice ai giornalisti, anche voi se collaborerete con me rischierete la vostra vita. Negli Stati Uniti la stampa però ha dato prova in molte occasioni di essere in grado di gestire scandali di questa portata. Il 6 giugno del 2013 Greenwald e Laura Poitras sono nella stanza di Snowden al Mir Hotel di Hong Kong, registrano una lunga intervista al ragazzo. My name's Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz. Il mio nome è Ed Snowden. Ho 29 anni e lavoro per Booz Allen Hamilton come analista di infrastrutture per la NSA alle Hawaii. Quando fai parte di una categoria di lavoro così privilegiata per quanto riguarda gli accessi, come ad esempio un amministratore di sistemi per le agenzie di sicurezza nazionale, sei a contatto con una quantità enorme di informazioni a cui gli altri impiegati ordinari non possono arrivare e vedi cose scioccanti. Quando vedi tutto, ti rendi conto che si tratta di veri e propri abusi. Col passare del tempo ti accorgi che qualcosa di sbagliato sta accadendo e ti senti in dovere di parlarne, ma all'interno ti ignorano, ti dicono che il problema non esiste. Ti rendi conto che queste cose dovrebbe deciderle la gente, non il governo. Until eventually you realize that these things need to be determined by the public, not by somebody who was simply hired by the government. Lo stesso giorno dell'intervista, The Guardian e un'ora dopo il Washington Post pubblicano i primi documenti forniti da Snowden, 10.000 file, nel tempo ne fornirà 1.000.000. Lo scoop non ha precedenti e Snowden rivela la presenza di Prism, che è un programma clandestino di sorveglianza elettronica in grado di rilevare, di avere accesso in tempo reale, di conservare tutte le operazioni effettuate dai privati cittadini attraverso le 9 principali major internet del paese, tra le quali ovviamente Google e Yahoo. Vengono rivelati i dettagli relativi al Boundless Informant, un sistema di visualizzazione e analisi di dati relativi a milioni di telefonate effettuate tutti i giorni dai cittadini americani. Viene pubblicato perfino un ordine segreto della corte che obbliga Verizon Communication, la più grande compagnia di telecomunicazioni provider negli Stati Uniti, a fornire quotidianamente con un sistema tutte le chiamate all'interno degli Stati Uniti e tutte le chiamate all'estero. Scoppia la bomba Snowden. E beh, quello che succede un secondo dopo la pubblicazione del testo dell'intervista ve lo lascio immaginare, perché credo sia impossibile ricostruire tutto quello che avviene, le implicazioni legate a rivelazioni di questo genere. Parte subito una caccia all'uomo. Snowden è un uomo morto, perché la fonte delle rivelazioni è segreta. Nessuno ha fatto il nome di Snowden, ma loro cominciano a capire. Il 9 giugno Snowden chiede a Greenwald che venga rivelato il suo nome, tanto lo avrebbero trovato gli altri. Per prima cosa lui sente di non aver fatto niente di male e poi forse spera di evitare ai suoi colleghi la battuta di caccia da parte della CIA per scoprire chi sia il responsabile delle soffiate. E nel momento in cui viene rivelato il nome Edward Snowden, si scatena il finimondo. Il governo americano cosa fa? Rilascia una dichiarazione nella quale accusa il giovane di essere un traditore, un nemico della patria, che con le sue rivelazioni ha messo in pericolo la sicurezza del paese. Tutto quello che il governo ha messo in piedi è stato fatto solo, dicono loro, per tracciare attività illegali e terroristiche, e ovviamente si rifanno all'attentato dell'11 settembre. Noi dobbiamo difendere l'America, bla bla bla. I portavoce governativi cercano in tutti i modi di arginare questa emorragia di informazioni. Nascono parecchi incidenti diplomatici, come quello con la Merkel, che non è molto contenta di venire a sapere di essere stata intercettata e monitorata tramite il suo cellulare privato dal primo giorno del suo mandato, e dichiara la Merkel: queste cose tra amici non andrebbero fatte. Anche il presidente Obama non esce benissimo, perché la gente ha letto, si è documentata, si è fatta un'idea. Sì, c'è, diciamo, l'americano più ingenuo si convince che Snowden sia un traditore che ha messo in pericolo la sicurezza di tutti. La gente più ingenua dice: beh, se non faccio niente di male non mi importa di essere controllato. Ma molti invece non ci stanno, perché c'è anche un'America che non ci sta, che scende in piazza. Ci sono manifestazioni antigovernative. Obama viene preso di mira, il suo slogan Yes We Can viene trasformato in Yes We Scan, cioè ti possiamo scannerizzare. E intanto la videointervista di Snowden viene passata al setaccio dai servizi segreti, vogliono scoprire dove si trovi, e la CIA ce la fa grazie a un riflesso su un vetro di una finestra che viene inquadrata, che mostra un particolare profilo cittadino, e c'è un programma speciale di ricerca geografica, insomma riescono a stabilire esattamente dove si trovi Snowden, l'hotel Mira di Hong Kong, perfino il numero della camera. Bene, quando gli agenti segreti arrivano, lui però è sparito e si è nascosto in un appartamento, però a Hong Kong non è più sicuro. Julian Assange, che è il fondatore di WikiLeaks, naturalmente che si interessa subito a Snowden e alla sua sicurezza, ci racconta questo. Dalle nostre analisi non era più sicuro e avrebbe dovuto lasciare Hong Kong immediatamente. Ma lui era riluttante. Voleva valutare bene le varie opzioni di dove andare. Questo ci faceva diventare matti. In questo momento il confine è ancora aperto, gli dicevo. Dobbiamo andare. È ancora possibile scappare. Ma in qualsiasi momento potrebbero chiuderlo. E finalmente Snowden si convince che bisogna andarsene, accompagnato da un'incaricata di Assange, che si chiama Sarah Harrison, parte da Hong Kong con destinazione Mosca. È il 23 giugno 2013. Dovrebbe essere uno scalo tecnico per andare a Cuba e magari in uno dei tanti paesi dell'America Latina che gli hanno offerto asilo politico, però qualcosa va storto. Il governo degli Stati Uniti gli revoca il passaporto, lui non ha più un documento valido, viene bloccato come Tom Hanks nel film. Rimane al terminal F dell'aeroporto Sheremetyevo di Mosca per più di un mese, quando finalmente riesce a ottenere un visto di asilo temporaneo non può più andarsene, può solo rimanere perché l'asilo gliel'hanno dato i russi. Questo naturalmente crea dell'attrito tra Putin e Obama, ma Putin sulla questione Snowden è assolutamente determinato. Ora Snowden è nel nostro paese. Per fortuna non ha ucciso nessuno. Gli americani dicono: è un criminale, consegnatecelo. Ma a noi non risulta che sia un criminale. Che cosa farà dopo? Non lo sappiamo. Questa è una sua scelta, il suo destino. Certe volte ci penso, cosa farà? Mi è difficile immaginarlo. Resterà tutta la sua vita in Russia? Ma lui è così, ha deciso di essere in prima linea nella lotta. E beh, vedete che il tanto vituperato Putin è l'unico che ha gli attributi per opporsi e per difenderlo. Magari adesso sta lavorando con il suo governo, questo non lo sappiamo, però quello che è certo è che è una vicenda della quale è stato scritto solo il primo di una lunga serie di capitoli. Una vicenda che ha ispirato anche il grande Oliver Stone, che ha dedicato un film alla storia di Snowden, la più famosa talpa d'America. Ci sono persone che con i loro colpi d'ala hanno rinunciato a tutto pur di difendere un principio, e nel caso di Snowden pur di difendere tutti noi. E quindi noi, insomma, gli auguriamo lunga vita con o senza Putin. Ognuno di noi nella sua vita può cadere, ma può anche volare molto in alto, anche magari a dispetto delle circostanze. Se volete segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure al nostro sito, oppure nei miei social o nei social del Falco il Gabbiano, insomma, se volete lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.